Sulla base della formula fornita, sapete che la velocità si calcola dividendo lo spazio percorso per il tempo impiegato. Quindi, nel vostro caso, 6 metri al secondo sono uguali a 600 metri diviso il tempo. Ora dovete ricavare il tempo.